Incontri di Gianfranco Fabi. Queste note inconfondibili dell'inno 33 degli Alpini iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Pino Polli. Grazie, buongiorno. Pino Polli è presidente della manifattura di Domodossola, ma prima di parlare di Pino Polli e della manifattura di Domodossola, che compie quest'anno i suoi 100 anni, la manifattura, non Pino Polli, ecco, parliamo di questa marcia degli Alpini, perché ha voluto questa marcia per introdurre questo nostro dialogo. No, beh, perché io ho fatto il militare negli Alpini, artiglieria da montagna. Per chi avesse un po' di conoscenza del mondo degli Alpini, puntatore di sinistra e capopezzo sull'Ovice 105-14. Però quindi non è in un guerra. Onore. Non in guerra, dopo. Se lei avesse 100 anni, forse avrebbe fatto la guerra. No, è stata un'esperienza molto bella, piacevole. Mi sono anche spaccato un timpano, perché chi fa l'artigliere, un timpano deve sempre partire, quindi ecco, un ricordo del passato, un ricordo indubbiamente di una passione anche verso questa partecipazione appunto solidale del Corpo degli Alpini. Ma cosa ricorda proprio come a livello emotivo del fatto di essere stato alpino? Perché gli alpini sono così uniti, sono così fanno questi raduni ogni anno con migliaia di persone? Sì, perché lei ha parlato di solidarietà, volontariato. Io ad esempio ho partecipato, sono un po' imbranato perché non è il mio mestiere fare il muratore, però ho partecipato alla ricostruzione del post terremoto a Cavazzo Carnico in Friuli. Ero un po' nella logistica, quindi costruire gli attendamenti eccetera per la nostra sezione di Domodossola, che aveva partecipato per qualche mese, ha aiutato la popolazione del Friuli. Quindi praticamente il Corpo degli Alpini è fatto di gente di montagna che è concreta. Cioè alpini si resta in pratica. Alpini si resta, ecco. Si nasce anche perché il mio papà era alpino, mio fratello, insomma, una famiglia di alpini. Poi Domodossola è una realtà, sì, esatto. Nella valle dell'Ossola, perché non lo conoscesse, nel nord dell'Italia, in Piemonte, una bellissima valle, è al confine con la Svizzera, al confine con le grandi montagne, tra cui Monte Rosa, quindi è un ambiente indubbiamente affascinante, in cui è nata 100 anni fa questa manifattura. Come è nata la manifattura di Domodossola? La manifattura di Domodossola è nata nel 1913, l'acquisì mio nonno, era un'azienda che era nata qualche anno prima, non andava bene, mio nonno l'ha acquisita, aveva già un 80-100 dipendenti, costruivano, fabbricavano funi, cordami, articoli intrecciati, tante cose, insomma, e da lì partì. Non ho capito perché facevano le funi delle navi in montagna, ma questa, la fabbrica è nata lì e poi le generazioni... Cioè sono le bizzarrie italiane. Sì, esatto, esatto. Cose poi non si sa come mai i rubinetti si fanno sul Lago d'Orta, tante cose sono nate in maniera anche un po' strana, però c'era la passione, c'era la volontà di un'azienda che poi è cresciuta negli anni ed è una delle eccellenze italiane adesso. Ma sì, adesso siamo diventati un'eccellenza nella nostra piccola nicchia. Non più delle funi per navi. Non più funi per navi, ma articoli intrecciati con qualsiasi tipo di materiale tessile e poi soprattutto pelle e cuoio, che noi trattiamo tutto in fabbrica, si taglia, si colora in fabbrica, si intreccia a macchina. Siamo stati i primi al mondo a intrecciare a macchina il cuoio, gli elastici di tutte le cinture che ci sono in giro. E poi facciamo anche articoli per arredamento, quindi grossi tessuti da 140 fatti in rame, fatti in cuoio, per rivestire gli yacht, per rivestire gli aerei, per rivestire sale importanti. Quindi è rimasta un po' l'origine dell'intreccio, ma si è poi sviluppato in forme le più diverse, le più anche innovative. Sì, assolutamente. Ecco, in questa prospettiva quali sono i prodotti che caratterizzano adesso la manifattura di Domodossola? Sono sicuramente i prodotti destinati alla moda. Noi creiamo moda, studiamo macchinari e materiali da lavorare, da intrecciare, e poi prendono le più svariate vie a livello italiano, sicuramente, ma anche a livello internazionale, per accessori di pelletteria, quindi a livello di cinture, di tessuti per borse, collaboriamo con le più importanti realtà mondiali, da Hermès alla Louis Vuitton, a Prada, Chanel, eccetera. Noi siamo i fornitori di semilavorati che poi vanno a finire nei loro prodotti finiti. E quindi voi vendete soprattutto all'estero, siete un'azienda che si può dire internazionale, mi pare che vendete in quasi 50 paesi. Sì, fortunatamente tantissimi, cioè tantissimi, ormai sono tantissimi anni fa, la volontà di dover sviluppare l'azienda e soprattutto di riuscire anche a sopravvivere, perché il mercato interno non era sufficientemente ricettivo, mi ha costretto a prendere la valigia e girare per il mondo, andare in Cina quando in Cina non ci andava ancora nessuno, in Giappone quando in Giappone non c'era ancora nessuno. E vendere, fare delle micro fiere negli alberghi, invitando i probabili acquirenti, ci siamo fatti conoscere. È stata un'avventura importante per me, per la mia formazione e soprattutto per l'azienda. Ecco, un'azienda appunto che è cresciuta, adesso che dimensioni ha? Quanti Ma, dipendenti? i dipendenti sono rimasti quelli dei tempi di mio nonno, quindi siamo rimasti un'ottantina, ci sono state delle punte tra le due guerre, erano arrivati a 300. Stiamo mantenendo bene perché un 80 dipendenti in un'azienda che fa questo tipo di prodotto sono un bel numero. Fortunatamente il lavoro c'è per tutti, non siamo mai andati in cassa integrazione, questo è il nostro vanto. Io sono 40 anni di mia presenza in fabbrica e non abbiamo mai dovuto accedere a questo tipo di aiuto, insomma. Ecco, voi avete celebrato nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, i vostri 100 anni. C'è stato un incontro in Assa Lombarda in cui sono state messe in luce alcune particolarità della vostra impresa, e in particolare quattro paradigmi: la realtà familiare, il legame con le maestranze, l'identità territoriale e le dimensioni dell'impresa. Cioè, è un'impresa familiare, un'impresa che è rimasta familiare, siete alla quarta generazione. Sì, esatto, siamo la quarta generazione. Mio nonno, poi mio zio e mio padre, poi sono entrato io nel 71, poi assieme, poi dopo è entrato anche mio fratello, e da 5-6 anni sono presenti le mie due figlie. Direi che sono fortunato perché l'azienda continua a livello familiare, hanno scelto la strada di entrare in azienda. Purtroppo, molti miei colleghi non hanno i figli che entrano in azienda, scelgono delle altre strade perché fare l'industriale è pesante, duro, difficile, rischioso. Le mie figlie hanno scelto questo tipo di strada e sicuramente, non voglio essere ottimista, ma sicuramente per altri 20 o 30 anni l'azienda ci sarà. Poi toccherà forse a mio nipote che ha 9 mesi adesso, e magari se il DNA è buono, spero che prosegua. Comincia a dare Sì, qualche suggerimento educativo anche al nipote, che è un'azienda comunque al femminile la vostra, non Femminile, solo le due sì. figlie, ma anche i dipendenti sono in gran parte donne. Sì, usiamo una parola che non mi piace, sono le quote di genere. Cioè, ci vogliono le quote azzurre forse Sì, della vostra io azienda. dovrei difendere, infatti difendo i miei maschi perché è una quindicina di uomini, sono i meccanici, sono gli autisti, sono i magazzinieri, perché le altre sono tutte donne, ma è una tradizione nelle aziende tessili avere manodopera femminile sulle macchine, ma anche negli uffici, chissà perché, è sempre stata manodopera femminile. Quindi noi siamo proseguiti nella tradizione, solo i dirigenti, i capi, i gran capi sono sempre stati maschi, mio nonno, mio padre, io, mio fratello, eccetera. Adesso si è ribaltato anche il rapporto interno, sono due femmine, da qualche anno c'è dentro anche mia moglie che gestisce la finanza, e quindi sono uno dei pochi maschi in azienda, dobbiamo difenderci. Complimenti. Ecco, ma in questa prospettiva l'altro elemento forte che dicevamo è quello del rapporto con le maestranze. Un'azienda delle vostre dimensioni si può considerare un'azienda familiare anche perché c'è un rapporto costruttivo, non conflittuale, con le maestranze. Sì, direi di sì. Io ho sempre fondato il rapporto con le maestranze su un rapporto schietto, cordiale, insomma, ci si conosce tutti. Il lavoro si tramanda anche di padre, di madre in figlia, sorelle. Conosciamo tutti i loro problemi, anche i problemi di famiglia. Abbiamo da qualche anno gestiamo anche una borse di studio interne per i figli dei nostri dipendenti. Qualsiasi necessità oltre al lavoro cerchiamo di risolverla, ecco, perché le aziende funzionano solamente se chi opera nell'azienda ama il lavoro che è fa. È motivato, insomma, ha una motivazione. Esatto. E quindi questa motivazione nasce anche da un rapporto diretto, costruttivo con l'imprenditore assolutamente. C'è anche proprio un coinvolgimento, anche non dico nella ricerca, ma molte delle maestranze stanno anche proprio attente, seguono le problematiche della ricerca, dell'innovazione. Ecco, l'innovazione, su questo fronte voi siete un'azienda classica che fa dei prodotti che sembrano classici, appunto, ma che richiedono una grossa dose di innovazione anche per migliorare, appunto, la qualità dei prodotti, rendere più economica la produzione. E come è cambiato il lavoro da quando lei è entrato in azienda? Come è cambiata l'azienda in questi anni? Beh, l'azienda, io ho preso in mano un'azienda quando sono entrato che era un'azienda vecchia, macchine vecchie, strutture vecchie, erano ancora quegli vecchi stabilimenti di inizi secolo, quindi era diventato obsoleto. Quindi la prima attenzione è stata dedicata al rinnovamento, alla ricerca di macchine. Abbiamo fatto costruire macchine da zero, sono uniche macchine al mondo, quindi è anche un nostro pregio quello di avere una produzione esclusiva, direi un monopolio. E poi siamo arrivati ad arrivare allo stabilimento nuovo, che è modernissimo, è splendido, è acciaio, vetro, vivibilissimo. Sempre a Domodossola? Sempre, a 7 chilometri da Domodossola. Quindi siamo rimasti in Valdossola, ci viviamo bene perché, insomma, la nostra terra, si recupera ancora facilmente maestranze femminili. E direi, quando si parla, ecco, prima lei ha toccato l'argomento dell'innovazione, noi facciamo costantemente, quasi tutti i giorni, innovazione. L'innovazione è l'innovazione del prodotto, perché facciamo moda, quindi tutti i giorni bisogna fare qualcosa di nuovo. E poi soprattutto l'innovazione dei processi di prodotto, quindi inventarsi da zero delle macchine, quindi finanziare dei prototipi e poi dai prototipi far costruire le macchine. E direi che in Italia ne facciamo tantissima di innovazione, non solo la nostra azienda, ma tutti i miei amici, colleghi. Anche solo se le statistiche, ecco, ufficiali le statistiche, non, infatti, compare. Mi arrabbio sempre quando leggo le statistiche ufficiali, perché se siamo arrivati ad essere la seconda nazione europea per produzione, la sesta, settima al mondo, vuol dire che offriamo dei prodotti sempre innovativi, ma non solo a livello di moda, anche di macchine, di macchinari, di robotica, eccetera. E se non avessimo prodotto innovativo non riusciremmo a venderlo in giro per il mondo. Quindi in Italia si fa tantissima ricerca, solo che non va a finire nelle statistiche, perché viene fatta nelle piccole e medie aziende, che sono la caratteristica del sistema industriale italiano. Abbiamo poche multinazionali e quindi a livello di statistica non c'è il solo... Anche perché è un'innovazione incrementale, cioè che modifica... Sì, giorno dopo giorno non viene... Non si arriva neanche a quei pochi finanziamenti che ogni tanto fanno, perché è difficilissimo riuscire anche a dimostrare quanti costi dobbiamo sostenere per arrivare ai risultati a cui stiamo arrivando. Insomma, quindi si può dire che sono aziende anche molto, dal punto di vista tecnologico, molto avanzate in Italia. Ultra avanzate, insomma. Io giro tanto il mondo, ma... sia nel mio settore, ma anche e soprattutto nel settore, ad esempio, della meccanica. Quando visito officine meccaniche italiane o europee, si nota proprio la differenza di tecnologie, di capacità di avere delle macchine, degli impianti che sono completamente diverse. Ecco, infatti l'Italia sta ottenendo i pochi risultati buoni che ottiene sul fronte economico, proprio sull'esportazione di macchine e macchinari, e questo vuol dire che siamo capaci di essere innovativi su questo fronte. Incontri. La forza e il coraggio della loro... ancora con l'inno degli alpini, la forza e il coraggio, riprendiamo il nostro incontro con un artigliere di montagna, Pino Polli, presidente della manifattura di Domodossola, e che appunto abbiamo iniziato parlando degli alpini, della sua passata esperienza come alpino, in cui è rimasta appunto la passione e il coraggio anche come imprenditore. La manifattura di Domodossola, l'abbiamo ricordato, compie quest'anno 100 anni, è alla quarta generazione, è un'impresa familiare che ha iniziato la sua attività con la produzione di funi per navi e che adesso si è specializzata nell'intreccio dei materiali dedicati alla moda e dedicati a tutti quei settori in cui ci può essere un intreccio non solo tessile, ma anche mi parlava di rame, mi parlava rame, di cuoio, tessuti intrecciati, insomma. Quindi l'intreccio è rimasto come base dell'attività della manifattura di Domodossola, ma con una grande innovazione. Esatto. Ecco, l'innovazione, mi spiegava, è anche innovazione nei macchinari per produrre questi tessuti o questi elementi intrecciati. Sì, noi abbiamo dovuto, proprio per differenziarci nel nostro settore dai competitori italiani ed esteri, abbiamo cercato di creare impianti nuovi da zero, siamo riusciti, ogni tanto le macchine non funzionano, fa parte del nostro rischio di impresa, molte volte invece funzionano molto bene, quindi creiamo dei prodotti che sono... Non è possibile riprodurre a livello mondiale. Ecco, quindi parlava quasi di un monopolio che voi avete in questo settore, il fatto di essere gli unici produttori a livello mondiale di questi particolari, sì, elementi che poi compongono, sono componenti dell'alta moda. Ecco, mi parlava anche del fatto di essere stato un po' un pioniere in Cina e in Giappone, quindi di essere presente su molti mercati esteri. Quali sono stati i mercati che le hanno dato più soddisfazione, che hanno creato magari maggiori sorprese, in cui si aspettava di meno e ha ottenuto di più? Direi per noi che eravamo abituati, mio padre, mio nonno, eccetera, a un mercato assolutamente ed esclusivamente nazionale, il primo mercato importante sono stati gli Stati Uniti. Quindi prima di vendere in Europa, quindi Svizzera, Francia, Germania, che sono i più vicini, siamo riusciti a vendere, ma veramente in maniera... il 50% del nostro lavoro era per gli Stati Uniti, con grandissime aziende. Purtroppo poi gli Stati Uniti spostarono le loro produzioni, i loro acquisti, prima in Turchia e poi in Estremo Oriente, per cui il nostro tipo di prodotto scese come appetibilità. E dagli Stati Uniti poi abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni in Giappone e direi anche in Cina, perché per qualche anno abbiamo prodotto un intrecciato per cinturini d'orologio per un'azienda cinese che costruiva i cinturini per la Fossil, quindi erano milioni di cinturini per il mercato americano, ma prodotto in Cina. Quindi mercati strani, veramente, direi che più importanti di quanto non lo siano, sembra strano, ma di quanto possa essere la Francia o la Germania. Ecco, in questa prospettiva, i paesi emergenti, come li vede? Si parla molto delle prospettive del Brasile, dell'India, ma anche della Turchia, dell'Egitto, del Messico. Ha qualche obiettivo nel prossimo futuro, per lei o per le sue figlie, ovviamente, che adesso hanno in mano le redini dell'impresa? È molto difficile questa, fare un'analisi sui mercati mondiali, per due motivi. Uno, noi produciamo un articolo, un semilavorato abbastanza costoso di immagine e di alta qualità, un grande made in Italy, per cui i paesi che potrebbero consumare il nostro prodotto devono avere delle aziende che costruiscono il prodotto finito di alto livello. E nei paesi in crescita adesso sono pochissime le aziende, anche in Cina stessa il produttore di articoli finiti è medio-basso, quindi è controproducente comprare un semilavorato made in Italy che costa già tanto di base. E un mercato strepitoso poteva essere per noi il Brasile, ma purtroppo ci sono dei dazi che sono quasi il 100%, e quindi non riusciamo a vendere in un mercato che sarebbe stato strategico, non solo perché il Brasile ha una cultura latina, quindi l'intreccio appartiene un po' alla nostra cultura, ma poi il Brasile, sì, era proiettato sui mercati nordamericani. E quindi qui c'è sempre il solito problema poi della reciprocità, nel senso che noi, per tantissimi motivi, può essere giusto, non discutiamo in questo, oggi di questo tipo di problema, noi non applichiamo dazi, mentre invece dei nostri competitori in certi settori applicano dei dazi che sono addirittura esagerati, quando si parla di quasi del 100%. Ecco, non ha mai pensato di delocalizzare, di andare a produrre nei mercati dove ci può essere appunto una maggiore possibilità di crescita? In fondo, essere a Domodossola ai piedi del Sempione è una realtà un po' lontana, forse anche un po' difficile da collegare col resto del mondo. Guardi, per assurdo potremmo delocalizzare in Svizzera. La Svizzera è vicina, il costo del lavoro è molto alto, però il nostro prodotto è talmente importante per cui potrebbe sopportare un costo di prodotto fatto anche in Svizzera. Quindi questa è un'idea a cui stiamo pensando, soprattutto le mie figlie stanno pensando a trasferire parte di attività nella vicina Svizzera. Per il resto no, sicuramente non andremo mai in Cina o in Brasile. In Cina, Brasile o Romania, non sarebbe svilire veramente la nostra cultura di prodotto e forse anche un po' la nostra cultura di azienda. Non andiamo a cercare i business, gli utili, sul costo della manodopera, sarebbe sbagliatissimo. Ecco, appunto, il costo della manodopera non è l'elemento fondamentale, però appunto perché allora pensare alla Svizzera per un'impresa come la vostra? Perché quali sono i vincoli in Italia che pesano, che gravano sulle imprese, che vi fanno appunto pensare di poter avere migliori prospettive in un mercato in fondo vicino, al di là del Sempione, come può essere quello svizzero? In Italia il problema è che non esiste più la certezza del diritto. Le leggi in Italia vanno interpretate e questo fa paura. Io vabbè, ormai ho una certa età, ho vissuto tutto il mio percorso, l'ho fatto, però il percorso delle mie figlie ed eventualmente dei loro figli io spero che debba essere garantito. In Italia non è così, sicuramente non è così, perché c'è ormai una prevalenza del sistema burocratico e quindi di tutto quello che circonda il mondo della produzione che ci ostacola per certe volte ci impedisce proprio di operare in maniera normale e corretta. In Svizzera il diritto è ancora diritto, poi ci sono anche un discorso eventualmente della Svizzera, c'è anche un motivo di andare controcorrente. Andare controcorrente significa pensare non più tanto a un made in Italy ma a un qualcosa di più snob che è un made in Swiss. Ecco, c'è anche questo discorso, sai, perché quando il made in Italy ha ancora però una grande immagine all'estero. No, ce l'ha assolutamente, l'immagine fortunatamente è sempre direi per certi versi ancora in crescita, dobbiamo ancora conquistare un mucchio di mercati, però il made in Italy c'è anche un'altra faccia della medaglia. Forse l'Italia come made in Italy, come produzione di qualità, come moda, come design è ancora vista molto bene. L'Italia come sistema paese forse mostra molte fragilità. Esatto, sì. Anche se fragilità può essere un po' un eufemismo, però insomma ha molti problemi. Abbiamo molti problemi. Ecco, da imprenditore che cosa chiederebbe di diverso? Abbiamo già parlato della certezza del diritto e questa è fondamentale. Avere delle sentenze rapide e soprattutto della possibilità di fare eseguire le sentenze, soprattutto nel diritto civile, è molto importante. Ma come per esempio sostegno alle esportazioni, come rapporto con le banche, anche come rapporto con i sindacati, tanti problemi che ci sono in un'impresa, tanti problemi di cui si parla molto spesso, ma secondo me quale può essere la priorità? Da dove cominciare? La priorità dal mio punto di vista è semplificare qualsiasi tipo di procedura a favore del mondo dell'industria. Invece noi abbiamo ancora uno Stato e un sistema che direi ottocentesco, non hanno capito i nostri politici, il sindacato, la burocrazia, che il mondo sta andando a una velocità impressionante. Quello che stiamo facendo oggi, domani sarà già tutto diverso. Invece noi abbiamo ancora quei vecchi riti, quei sistemi, nascono certe idee, si portano magari avanti, poi ci sono chi si infila dentro nella procedura per arrivare alla realizzazione dell'idea e cambia completamente il risultato finale. Faccio un esempio, lei ha parlato ad esempio di esportazione. Per esportare c'è un sistema facilissimo di aiuto, che solo aiutare le aziende quando vanno nel mondo. Noi abbiamo tante piccole e medie aziende, quindi andiamo in giro per il mondo e facciamo le fiere. E finanziare la fiera. Non c'è pericolo di avere dei favoritismi, perché gli enti fiera normalmente sono enti statali in tutto il mondo, quindi la fattura è una cosa reale. Noi portiamo la fattura e scarichiamo il costo di una fiera o parte della fiera. È semplicissimo, in un giorno possono fare un decreto legge e un iter di legge legislativo per arrivare a questo. Invece per finanziare le esportazioni fanno compilare moduli, eccetera. Anche la burocrazia deve lavorare. E automantenersi. Grazie, sarebbero tante cose da dire, però già questa indicazione, la semplificazione è un elemento certamente importante nella realtà industriale, nella realtà italiana. Il governo qualcosa sta facendo, speriamo che faccia sempre di più su questo fronte e che non complichi le cose per semplificare, se possiamo concludere così. Io ringrazio l'Alpino Pino Polli, presidente della manifattura di Domodossola, complimenti per i 100 anni grazie. Dell'azienda, non ci rivedremo tra 100 anni, ma auguriamo di altri 100 anni di successo a questa impresa appunto nella Val d'Ossola. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica. Grazie.